Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. E buonasera a tutte e ben sintonizzate sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Quella che state ascoltando adesso è la nostra trasmissione numero, vediamo se siete preparate, e vabbè, lo dico io, 297. Quindi a farvi compagnia oggi qui siamo Rosina. Buonasera a tutte. Che è The Voice, come ben sapete. Lucilla, che sono io, e Stefania, che è la nostra fonica. Buonasera. Bene, allora, per questa sera vi ricordiamo innanzitutto che chi vuole può ascoltarci in diretta. Non so se chi sta ascoltando già la radio vuole ascoltarci anche in diretta, però insomma noi ve lo diciamo lo stesso, e potete farlo attraverso il sito ufficiale della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il nostro sito, che è quello del coordinamento lesbiche romane, www.clrbp.it. E in entrambi i casi basta che voi clicchiate sulla icona in diretta. Oggi per la serie Donne Storia vi racconteremo la straordinaria storia, appunto, di Suor Juana, vissuta nel 1600, che è stata una poeta ed una scienziata che amava le donne, naturalmente, e che scriveva dei versi bellissimi, ha avuto storie anche molto importanti e soprattutto ha avuto una storia di vita straordinaria, come sentirete dal nostro racconto. Poi vi faremo una breve nota su un qualcosa che è più attuale, che sta adesso nella storia quotidiana e che ci fa che fa vergogna non a noi, ma che fa vergogna ai soliti noti. E adesso credo che Stefania ci manderà un bel pezzo musicale. Ascoltiamo un po' di rock, Lucinda Williams con Rarity. Close to the beauty of your song. video, so you'll never gonna be a big star. Ok, e allora arriviamo qui a parlare della nostra suor Juana Inés de la Cruz. Allora, Juana Inés de Asbaye Ramírez de Santillana nacque, naturalmente sentite che spagnolo, veramente fantastico, nacque in un piccolo paese vicino a Città del Messico nel 1648 ed era figlia naturale di un capitano di ventura basco e di una creola analfabeta. Questa straordinaria figura si colloca tra i più grandi letterati della letteratura ispanoamericana. La madre ebbe sei figli da due uomini diversi con i quali non fu mai sposata, e quindi anche il background, diciamo, no, di questa splendida donna era molto particolare per l'epoca. E, dotata di una precocissima intelligenza, mostrò un irrefrenabile interesse verso lo studio ed in ciò dovette trovare appoggio e comprensione nel nonno materno, che possedeva una piccola biblioteca che la bambina frequentò e probabilmente ereditò. Nel periodo in cui Juana vive nel Messico, come negli altri paesi coloniali, le autorità proibivano l'introduzione e la stampa di romanzi, condizionando la cultura americana in via di formazione. La letteratura rivestiva carattere prevalentemente religioso ed era ovviamente rivolta alla conquista spirituale del continente ad uso dei missionari, che tenacemente costruivano la cultura religiosa dei dominatori, cancellando con ogni mezzo, anche coercitivo, quella delle popolazioni autoctone. E sappiamo bene le culture dell'America Latina come sono finite. A ciò si sottraevano le due corti del Messico e di Lima, ma in quelle realtà si praticava la poesia come un gioco di società stilisticamente ripetitivo e dunque culturalmente piuttosto insignificante. Dunque, i primi anni di vita di Juana li conosciamo attraverso una serie di aneddoti che lei stessa ci ha tramandato, ci ha raccontato, e comunque sono anche stati confermati dai suoi biografi. Come detto, Juana era un amante dello studio. A circa 3 anni, mentre accompagnava la sorella maggiore da un insegnante, imparò precocemente a leggere e a scrivere senza che neppure la madre se ne accorgesse, e Juana racconta questo particolare della sua vita in questo modo: seppi leggere in così breve tempo che già lo sapevo quando lo seppe mia madre, cui la maestra l'aveva tenuto nascosto per darle alla fine la buona notizia e insieme ricevere una ricompensa. E io avevo taciuto, credendo che mi avrebbe frustata, poiché l'avevo fatto senza ordine. Un altro ricordo di Juana rispetto allo studio, rispetto al sapere, è questo: avendo sentito dire che il formaggio rende ottusa la mente, Juana si asteneva dal mangiarlo per timore di non riuscire ad imparare abbastanza. E ancora, quando seppe che a Città del Messico c'erano delle scuole dove si poteva studiare, cercò, non si sa se invano oppure riuscendovi, di convincere la madre a farla studiare, a mandarla all'università travestita da ragazzo. In realtà verso i 10 anni Juana si recò a Città del Messico, non si hanno notizie rispetto a questo periodo della sua vita. Sembra che si recò appunto a Città del Messico soltanto per soggiornare da alcuni zii materni, quindi non siamo in grado di dire se effettivamente lei riuscì in questa sua, in questo suo intento di appunto mascherarsi e studiare presso, presso l'università. E, diciamo, c'è un vuoto nella vita di Juana fino fin verso al 1664, quando finalmente lei fece il suo ingresso a corte. A ridosso di quegli anni sappiamo però che prese alcune lezioni di latino, probabilmente una ventina, e che, se anche non bastarono a darle una padronanza della lingua, furono però sufficienti a permetterle di continuare a studiare con le proprie forze. Lei stessa ci racconta infatti che continuò a studiare con grande impegno, mettendosi alla prova. Juana aveva dei capelli molto belli, capelli bellissimi, ma li tagliava facendo un patto con se stessa: se al momento della ricrescita non fosse riuscita ad imparare quello che si era prefisso, li avrebbe tagliati di nuovo. Quindi faceva questa sorta di sfida con se stessa, proprio in virtù del suo amore per lo studio. E ritorniamo a noi, quindi. Juana si presentava agli altri mostrando ciò di se stessa a cui più teneva, quindi per questo tagliava i capelli, non le interessava la bellezza dei propri capelli, a lei interessava dimostrare quanto era colta, quindi il sapere, e questa sua forma autoimposta di disciplina che la sosteneva verso appunto l'apprendimento e la conoscenza. Lo studio solitario, per l'appunto, il voler entrare nel mondo del sapere maschile, anche oggi appannaggio prevalente degli uomini, figuriamoci allora, che alle donne era precluso, e quindi il sapere costituito dalla cultura più, diciamo, generalista, se possiamo esprimerci così, era precluso e negato alle donne. Era dunque consapevole di voler esprimere un impegno eccezionale per scardinare proprio quel divieto sociale che veniva dal patriarcato. Lei era la dimostrazione vivente che si poteva fare qualcosa di diverso, no? Affermava la propria volontà ed il desiderio di esistere, di interpretare il mondo tramite la conoscenza, e di esistere contrastando quindi anche un destino che altri avevano già scritto per lei, come per le altre donne, no? E Juana si imponeva a se stessa dei ritmi e delle modalità, e quindi stupiva quel mondo fatto di sopruso maschile e coloniale, di armi e di un potere virile, appunto fallocentrico diremmo noi oggi, e di tipo occidentale. La sua rapidità nell'apprendere era veramente eccezionale, i suoi interessi erano su vari campi. Scriveva versi, studiava astronomia, componeva musica, dipingeva, e quindi era preceduta da una fama, la fama della sua intelligenza, e nel 1664, a soli 16 anni, entrò al palazzo nel momento in cui il marchese Mancera si insediava quale viceré, e vi rimase come figura molto in vista per circa 4 anni. E ovviamente entrò immediatamente tra le donne che stavano più vicine alla viceregina, che era tale Leonor Carreto, con il titolo di amatissima. Il primo biografo di Suor Juana dirà che la signora viceregina non poteva restare un solo giorno senza la sua Juana Ines. E i versi che la giovane dedicò a Leonor sono meno espliciti di quelli che inviò in seguito all'altra successiva viceregina, alla quale ovviamente ancora una volta lei fu vicina, Juana fu vicina, ma nei quali esploderà un erotismo cantato in forma barocca e che va ben oltre il consueto encomio dovuto da una suddita ad una regnante. Leonor è esplicitamente cantata come la divina Laura a cui Juana ha offerto la vita, ed un corpo su cui nemmeno la morte potrà trionfare fin tanto che Laura lo possiede con il suo amore. Più esplicito di così. Ascoltiamo ora la canzone Pray for Rock and Roll, tratta dall'omonimo film delle Clam Dandy. E allora quindi abbiamo lasciato suor Juana Inés a corte con la sua Leonor come da favorita di Leonor, e quindi immaginiamo che lei abbia avuto come dire anche un piacevole approccio con questa dama, però nonostante appunto la presenza di questa donna per lei così importante, evidentemente la vita di corte non si addiceva a Juana, un po' perché appunto era di carattere molto, molto riservato, e anche perché la vita di corte appunto non si conciliava con il suo desiderio di studiare. Tra l'altro Juana era anche, come dire, era fatta oggetto di sentimenti contrastanti, quindi molti la ammiravano, era anche adulata, anche invidiata appunto per essere una delle favorite della viceregina, e comunque c'erano, diciamo, delle rigide imposizioni a cui le donne dovevano sottostare nella corte. Lei era comunque uno spirito libero, quindi per lei era difficile stare in quella situazione lì. E che cosa poteva fare a quel punto Juana? Le possibilità per una donna in quell'epoca, in quel frangente storico, no, erano solo due: sposarsi oppure entrare in convento. Lei lo scrisse a chiare lettere, scrisse che verso il matrimonio nutriva una netta repulsione, quindi decide di farsi monaca, di prendere i voti e andare in convento. E così scrive rispetto a questa decisione: presi i voti perché, pur sapendo che lo stato monacale rappresentava aspetti che non mi andavano a genio, era comunque, per il netto rifiuto che provavo per il matrimonio, la cosa meno fuori luogo e più congrua che potessi scegliere per la mia salvazione. Questo per quanto riguarda la decisione di recarsi in convento. Un altro particolare non trascurabile è che Juana per natura amava le donne, quindi era per lei era un grosso problema sottostare alle regole della società laica, della società aperta. Non sappiamo quando questa cosa le fu chiara, e certamente non dovette essere nemmeno semplice riconoscerlo, vista la rigidità culturale dell'epoca. Però sappiamo appunto che l'amore fra le donne è emerso abbastanza prepotentemente attraverso tutte le epoche, e anche nelle sue liriche. Entrare in convento per Juana fu una scelta di natura pratica. Appunto a quell'epoca le donne che non cedevano al matrimonio non avevano altra possibilità di scegliere. E il primo convento che Juana scelse fu quello delle Carmelitane Scalze, però lo lasciò dopo soltanto 3 mesi, perché la regola che vigeva in quel convento presso le Carmelitane era decisamente troppo rigida. Quindi lei cambiò appunto convento e pronunciò i voti il 21 febbraio del 1669 presso un altro convento, quello di San Girolamo, appunto, alla presenza del viceré. Perché scelse il convento di San Girolamo? Perché alle monache, alle suore del San Girolamo era permesso possedere beni personali, quindi gioielli, come esempio nel caso di Juana, dei libri che appunto potevano vendere, oppure potevano anche acquistare delle proprietà, addirittura effettuare investimenti, anche se tramite intermediari maschi. Quindi in questo convento Juana trovò le condizioni favorevoli per studiare, scrivere e mantenere rapporti con altri letterati. La cella di Juana all'interno del convento di San Girolamo si trasformò quindi in un vero e proprio salotto intellettuale. E in quel periodo iniziò una fitta corrispondenza appunto con altri letterati, sia in Spagna che in America Latina. Nel 1680, il 30 di novembre, il nuovo viceré si insediò assieme alla moglie Maria Luisa Manrique de Lara, contessa di Parades. Maria Luisa era una donna colta e anche molto affascinante, e incontrò Suor Juana, e questo incontro fu appunto segnato da una simpatia e da un'ammirazione reciproca che con il tempo divenne amore. E nella poesia che adesso vi leggiamo, Suor Juana chiamava Maria Luisa con il nome di Lisi e con il nome di Filis. Ecco alcuni versi scritti appunto da Juana per la sua amata contessa di Paradis. Ma a te a che serve proseguire? Come te, Filis, io ti amo, che i tuoi meriti vedendo, questo è l'unico elogio. Essere donna e starti assente non impediscono di amarti. Le anime, tu ben sai, distanza ignorano e sesso. Anima di vida, o seio da floresta, amor empresta. A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha. Ó abelha. Dunque, Suor Juana, a questo punto, divenne la beniamina della corte ed iniziò così per lei un periodo di intensa felicità ed anche di una lunga fase in cui si dedicò completamente allo studio, grazie alla protezione che aveva ottenuto dalla viceregina Maria Luisa e che fece stampare e circolare a proprie spese le opere della religiosa. Nel 1668, al termine della vicereggenza, la contessa di Paradis fu costretta a separarsi dalla sua amata. E nel frattempo, la fama di Juana si era estesa ben oltre il Messico ed iniziava a riscuotere vivo apprezzamento anche in Spagna. Ma proprio in quel periodo si trovò a dover fronteggiare da sola un nemico molto potente, e cioè l'arcivescovo di Città del Messico, tale famigerato Francisco Aguiar Seyas. Costui, tanto per cambiare, disprezzava il sesso femminile e a maggior ragione non poteva tollerare la libertà di cui godeva la suora, che scriveva versi d'amore e di teatro che nulla avevano a che fare con il sacro. E ad altri religiosi di sesso maschile tutto ciò era ampiamente concesso, ma Suor Juana restava sempre soltanto una donna, no? E quindi questo non se la poteva far scendere, in parole povere. E non poteva essere diversamente nel momento storico di massima violenza della Controriforma e dell'Inquisizione. Siamo appunto tra la fine del 600 e l'inizio del 700, ma soprattutto la fine del 600. L'occasione per attaccare la suora arrivò appunto nel 1660, quando, in circostanze mai chiare e mai chiarite, fu pubblicato un opuscolo dal titolo Carta Atenagorica della madre Juana Inés de la Cruz, un'opera teologica che conteneva una profonda critica ad un sermone gesuita dell'epoca che ben rifletteva il pensiero teorico dello stesso arcivescovo, e quindi qui ci fu l'anatema, è chiaro, no? Lo scandalo suscitato fu enorme, anche perché le critiche teologiche ad un uomo erano mosse da una donna. Comunque Juana si difese strenuamente e scrisse un'appassionata e splendida difesa della propria carriera intellettuale e soprattutto del diritto delle donne alla conoscenza e allo studio. E qui vi leggiamo cosa lei scrisse. Osservo che un uovo si rapprende e frigge nello strutto o nell'olio e si disfà invece nello sciroppo di frutta. Osservo che per mantenere fluido il caramello basta aggiungervi un po' d'acqua acidula di cotogna o di agrume. Osservo che il rosso e il bianco di un uovo sono così incompatibili che quando si devono unire allo zucchero vanno usati separatamente e non insieme. Non debbo stancarvi oltre con queste sciocchezze che vi fanno sorridere e che ho riferito soltanto per darvi un ragguaglio più completo della mia indole. Ma signora, cosa possiamo sapere noi donne che non sia filosofia da cucina? E io son solita dire, quando osservo queste cosucce, se Aristotele avesse cucinato, avrebbe scritto molto di più. Essa sede incessante di amor. Ah, essa luta de corpos suados, ardentes e apaixonados, gemendo na ânsia de tanto se dar. Ah, de repente o tempo estanca. Na dor do prazer que explode, é a vida, é a vida, é a vida, e é bem mais. E esse teu rosto sorrindo. Maria Luisa, ormai ex vice regina, restò comunque al fianco di Suor Juana, anche se ormai era appunto priva del potere che aveva esercitato ai tempi del suo mandato, che fu appunto un mandato molto prestigioso, e in tutti i modi cercò appunto di far circolare le opere di Juana, che appunto continuò a scrivere fino al 1693. Appunto vennero pubblicate, come abbiamo detto, in Messico, a Barcellona, a Siviglia, con dediche che celebravano l'eccellenza delle donne negli studi e in particolare appunto il valore di Suor Juana stessa. In quegli anni la situazione andava precipitando. La società messicana era sconvolta da una serie di insurrezioni popolari, di lotte per il pane, per maggiori diritti. In quel contesto Juana fu fatta oggetto di fortissime pressioni che culminarono con la consegna all'arcivescovo della sua amata biblioteca, di tutti i suoi strumenti scientifici e anche quelli musicali. In questo clima di gravi difficoltà Juana fu spinta a firmare una vera e propria rinuncia agli studi. Così, ridotta al silenzio, morì dopo essersi volontariamente dedicata alla cura delle consorelle colpite da una epidemia di peste, e correva l'anno 1965. Morì, abbiamo detto, una donna forte, coraggiosa, una intellettuale grande, valida, che per la qualità e la quantità delle conoscenze apprese molto spesso fu trattata come un fenomeno da baraccone, in un periodo storico in cui appunto l'inferiorità delle donne era la norma, e tanto quanto la riduzione al silenzio sociale e culturale. Era una donna che conosceva 4 lingue, cosa molto insolita per l'epoca, conosceva la matematica, la fisica, la teologia, era uno spirito libero, e ancora oggi la possiamo considerare tale, uno spirito che si sottrae come può al potere maschile, rifiuta il matrimonio, scrive espliciti versi d'amore, appunto in particolare per la Contessa di Paradiso, come abbiamo sentito, e così facendo celebra se stessa e le altre donne, e l'amore fra donne, e comunque non tace rispetto agli uomini, a cui dice: stolti uomini che accusate la donna senza ragione, ignari di essere cagione delle colpe che gli date. Ascoltiamo adesso un classico di Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be. E ritorniamo a Suor Juana, alle vicende da lei vissute, appunto. Lei scrive ancora rispetto alle donne e in difesa delle donne, dalle sue parole: debbo anche confessare che, essendo così chiara la mia vocazione intellettuale da non aver bisogno di modelli, non di meno mi sono stati di aiuto i molti esempi che ho letto di donne che si sono distinte sia nelle lettere sacre che in quelle profane. Vedo per esempio una Debora, giudice di Israele, che faceva leggi militari e civili e che governava un popolo in cui c'erano molti uomini dotti. Vedo una sapientissima regina di Saba, così dotta che osò mettere alla prova la dottrina del maggiore dei sapienti. Vedo tante donne illustri, alcune dotate del dono profetico come Abigale, altre di capacità di persuasione come Esther, altre di pietà come Rahab, cita donne dell'Antico Testamento. Se sposto la mia ricognizione presso i pagani, trovo per prime le sibille elette da Dio per profetare i principali misteri della nostra fede in versi così dotti ed eleganti che fanno rimanere stupiti. Vedo che adoravano per dea della scienza Minerva, che fu maestra di tutta la sapienza di Atene. Vedo una Zenobia, regina di Palmira, non meno sapiente che valorosa, una Aspasia da Mileto, la quale insegnò filosofia e retorica e fu maestra del filosofo Pericle, una Ipazia che insegnò astrologia e tenne cattedra per molto tempo ad Alessandria, una Leonzia greca che scrisse contro il filosofo Teofrasto e lo convinse. E noi vorremmo infine ricordare Suor Juana con una frase che la descrive stupendamente. Ed è questa: il mio calamaio è il rogo nel quale devo bruciarmi. Il mio cuore non vuole mudare, questo caso non ha. Oh, e naturalmente ringrazio l'ascoltatrice che mi fa notare che è vero che Juana era una donna eccezionale, ma ovviamente non è morta nel 1965 ma nel 1695, giusto così, insomma, per fare una piccola precisazione. Ah, perché hai letto male? Ragazzi, purtroppo l'età avanza e incombe, va bene, lo sbrilluccichio degli occhi. Dunque, a questo punto vorremmo leggervi una delle poesie scritte per Maria Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, la contessa di Paradesa, appunto amante di Juana. È una poesia molto bella. Sono versi d'amore per questa donna. Pur se mi accecò il guardarti, che importa vedere o no, se dell'anima i diletti anche un cieco può vederli? Quando l'amore tentò di fare tue le mie spoglie, Lisi, e la luce mi levò, diede all'anima quegli occhi che dal corpo mio sottrasse, diede a me, perché potessi con più attenzione adorarti, occhi con cui contemplarti, e così ebbi miglior vista, pur se mi accecò il guardarti. E prima questi occhi in me erano i tralci penosi, Non avendoti per sé, è chiaro che erano oziosi, non potendo vedere te. Accecarsi, a mio vedere, fu una grande provvidenza, poiché non potevo averti. E chi più luce non ha, che importa vedere o no? Ma è una gloria così rara quella che ho nell'adorarti, che seppure mi uccidesse porrebbe fine la gioia a quel che il dolore non seppe. Ma che importa se la palma mi sottraggono, violenti, in questa amorosa calma, non del mio corpo i tormenti, ma dell'anima i diletti. Così avrò nella violenta condanna di non vederti a sollievo del tormento sempre il mio pensiero in te, sempre te nel mio pensiero. Qui nell'anima vedrò il centro dei miei affetti, con gli occhi della mia fede. Che piaceri immaginati, anche un cieco può vederli. Questa molto bella, devo dire. E ve ne leggiamo un'altra, pochi versi, e andiamo a chiudere la nostra trasmissione. In questa la chiama Lisi. Lisi, alle tue belle mani dono castagne spinose, perché dove abbondano rose non possono mancare spine. Se tendi alla loro asprezza, e con questo il gusto inganni, perdona la rustichezza di chi te le regalò. Perdona che questo riccio solo può donar castagne. Meravigliosa. Che derrubò la base forte da mia paixão. Você, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho. Allora, prima di leggervi l'ultimo pezzo, molto piccolino del resto, che abbiamo ipotizzato, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle 21:15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17, il primo dalle ore 17 tutti i martedì, e noi invece andiamo in onda il primo e il terzo martedì del mese. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne di Roma presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle ore 21, oppure ci potete scrivere al CLR presso Casa Internazionale delle Donne di via San Francesco di Sales 1B 00 165 Roma. Se ci volete contattare, la nostra mail è contatti@clrbp.it, oppure il nostro sito web è www.clrbp.it, su Facebook ci chiamiamo CLR Donna, ed infine per gli SMS è 339-853-6270. Adesso, prima ancora di leggervi l'ultima e di dirvi l'ultima notizia, insomma, di cui volevamo farvi un breve resoconto, vi invitiamo per questo venerdì alle ore 21, dove devono venire le al Buon Pastore, ovviamente, alla Casa Internazionale delle Donne. Sì, scusate, io sono vetero, lo continuo a chiamare Buon Pastore. Alla Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B, ci sarà una serata che sbilè con la DJ Stefi, che appunto ci farà ballare. Venite e ci divertiremo insieme a partire dalle 21 fino a notte inoltrata. Io andrò via molto presto, perché voi sapete che sono ormai anziana, e quindi... Però prima vi dispenserà delle buone parole con la sua The Voice strepitosa. Ultima cosa che volevamo dirvi è dopo l'esempio di vita di Suor Juana e l'elenco di donne illustri che lei stessa ci ricorda, vorremmo veramente spendere due parole, e come diciamo noi, pochissima energia, sugli accadimenti della quasi ultima ora italiana. Ci riferiamo della quasi ultima ora, perché non è di questa settimana. Ci riferiamo all'iter parlamentare della nuova legge elettorale detta Italicum, che anche se etimologicamente non ricorda il porcellum, nei fatti sì. Puzza di maiale, infatti. Sì, sì, è così. Ci vogliamo sprecare sulle preferenze di voto cassate miseramente? I nostri politici non hanno ancora capito che la misura non è colma, è stracolma, e che devono veramente smetterla di pensare di essere una casta di intoccabili. Ma ancor più vergognoso è il comportamento degli italici maschi che hanno affossato senza complimenti i dispositivi in merito alla parità di genere. Come dire, le donne stanno bene dove stanno? A casa? A fare la calza? E come stanno? Ammazzate? Stuprate? Nelle stanze dei bottoni ci sono loro, gli onorevoli maschi, e le donne entrano nelle liste e o nelle rappresentanze su intercessione maschile, se sei brava o disponibile, se reggi bene le palle italiche dei tronfi onorevoli, ladri e maschilisti. La timida alleanza trasversale delle parlamentari a poco è servita, solo a rinnovare i completini vestite di bianco, di rosa, eccetera eccetera. Del resto sono passati 9 anni circa da quando la Prestigiacomo, come ministra delle pari opportunità, tentò di introdurre una quota minima del 25% di presenza femminile e venne apostrofata e insolentita da Pippo Gianni UDC e suo conterraneo con la mitica frase: le donne non devono scassarci la minchia. Abbiamo fatto molta strada dal Rato delle Sabine, non trovate? Direi di no. Arrivederci tra 15 giorni. Buonasera. Ciao. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.